I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciò che il borghese del XX secolo, tanto distinto, tanto umanista e tanto cristiano, non riesce a perdonare a Hitler, non è il crimine in sé, l'umiliazione dell'uomo in sé, ma il crimine contro l'uomo bianco, il fatto di aver applicato all'Europa procedimenti colonialisti riservati fino a quel momento agli arabi d'Algeria, ai coolies dell'India e ai neri africani. Aimé César, Discours sur le colonialisme, 1955. Ciao a tutte e ciao a tutti di nuovo. La storia e la memoria sono usate da chi detiene il potere in maniera taroccata, distorta, manipolata, falsificata, se non completamente silenziata. E allora noi, dopo gli avvenimenti di Parigi del 14 novembre, vogliamo far parlare direttamente i fatti. Southern trees bear strange fruit. 17 ottobre 1961 è un anno molto vicino, no? È soltanto una cinquantina e qualcosa di anni fa in più, non si tratta di secoli fa, è un periodo addirittura in cui alcune di noi erano già nati, erano ragazzetti. 1961, la Francia si rifiuta ancora di dare l'indipendenza all'Algeria. Ci sono delle trattative, ma sono in fase di stallo. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth. Il 5 ottobre 1961, Papon, prefetto di Parigi, instaura il coprifuoco dalle 20:30 alle 5 del mattino, 5:30 del mattino, per i francesi musulmani d'Algeria. I bar, tenuti o frequentati da loro, dovranno chiudere alle 19. Intanto vediamo chi è Papon. In Francia gli immigrati algerini sono numerosi e concentrati soprattutto nelle zone industriali. Si tratta essenzialmente di operai che vivono in condizioni di forte degrado nelle baraccopoli delle periferie industriali, prima tra tutte quella di Parigi. Tra loro l'egemonia politica del Fronte di Liberazione Nazionale si è ormai consolidata. Su di loro si abbattono le feroci cacce ai topi, così sono chiamati per disprezzo dalla polizia. Alla guida della polizia parigina c'è un eccezionale camaleonte politico, sulla biografia del quale è interessante soffermarsi, Maurice Papon, appunto. Inizia la sua carriera di zelante funzionario come radical socialista sotto i governi del Fronte Popolare negli anni 30. Scoppiata la guerra, passa al servizio come segretario generale del distretto della Gironda, del governo di Vichy, e ha un ruolo attivo nella deportazione di 1690 ebrei verso i campi di sterminio. Per questo crimine sarà processato e condannato nel 1998 all'età di 88 anni a 10 anni di reclusione. Ma rifiutando l'aria, nel 1944 prende contatto con la resistenza, salvando vita e carriera. Nel 1956 l'allora ministro, il socialista Guy Mollet, lo nomina ispettore generale a Costantina, una delle principali città dell'Algeria con ampi poteri su un vasto territorio. Sotto la sua supervisione l'utilizzo della tortura è merce corrente e le cifre della repressione parlano da sole. 10.282 morti, 117.000 deportati. Forte di questa esperienza, nel marzo del 1958 è richiamato a Parigi dal ministro degli interni, il radical socialista Bourgeois Monroy, per ricoprire la carica di prefetto. Com'è nel suo stile, non perde tempo. Fonda un centro di identificazione a Vincennes e un campo di internamento dove rinchiude 5.000 algerini. Ma il suo capolavoro è la creazione degli Arquis, un corpo di polizia parallelo, reclutato tra gli algerini collaborazionisti e inquadrato da ufficiali francesi, al quale affidare i lavori più sporchi. Gli Arquis requisiscono due alberghi nel popolare quartiere parigino della Goutte d'Or, trasformandoli in centri di tortura, d'assassinio e di infiltrazione nella resistenza indipendentista. È l'uomo giusto al posto giusto per ridimensionare l'influenza del Fronte Liberazione Nazionale in Francia. De Gaulle può giostrare tra gas e trattative con il governo provvisorio senza sporcarsi direttamente le mani. Allora, dicevamo che la Federazione di Francia del Fronte di Liberazione Nazionale giudica che il coprifuoco instaurato da Papon va boicottato. Il 17 ottobre, all'entrata in vigore del coprifuoco, gli algerini residenti nella regione parigina sono invitati a confluire verso i grandi boulevard del centro al grido di Algeria algerina, pace, negoziati con l'FLN, per convergere poi verso la Place de l'Opéra. La manifestazione, proprio come è stata chiamata, dovrà essere assolutamente pacifica. Non saranno tollerate armi, neanche una spina, riportiamo testualmente, né comportamenti violenti, e parteciperanno anche donne e bambini. Papon li aspetta al varco. Le stazioni del metro e delle ferrovie, i punti strategici, sono occupati dai posti di blocco. Migliaia di poliziotti, di gendarmi, persino di vigili del fuoco, oltre che naturalmente i famigerati Arquis, sono mobilitati in assetto di guerra. Papon stesso ha visitato nei giorni precedenti caserme e posti di polizia per diffondere il suo messaggio. Regolate i vostri conti con gli algerini. Qualsiasi cosa accada, siete coperti. Gli algerini si avviano a migliaia verso i luoghi convenuti e la manifestazione indipendentista assume anche un aspetto sociale. Gli invisibili abitanti delle periferie più squallide, che producono alla Renault e nelle altre fabbriche della Parigi operaia, invadono il centro della Ville Lumière, vetrina del benessere e della grandeur francesi. Nonostante la repressione, il fatto stesso che 30.000 uomini e donne abbiano sfidato il governo francese nella sua capitale è un successo senza precedenti. Ma la repressione è tremenda. Alle 21.50 la polizia comincia a caricare sparando. I manifestanti sono picchiati, arrestati e poi massacrati nei cortili delle caserme e nei campi di raccolta, oppure uccisi a colpi d'arma da fuoco o annegati nella Senna. Papon ammette 3 morti, 64 feriti e 11.538 arresti, ma la realtà è ben altra. Per giorni e giorni il fiume continua a restituire cadaveri con segni di violenza. Le prime autopsie rivelano ferite alla testa, evirazione, colpi d'arma da fuoco nel ventre. Storici autorevoli come Pierre Vidal-Naquet o ricercatori coraggiosi come Jacques-Luc Einaudi e intellettuali come Jean-Paul Sartre parlano di un bilancio che va dai 2 ai 300 morti. mot mache se maka maku savura es vida sa pios de vive avant de mot mache se maka maku savura angola angola Niños que te matan, un mejor para mañana en camino. Angola, angola y cursa, niños que te matan, un mejor para mañana en camino. Nei giorni seguenti la manifestazione, la Senna continua a destituire corpi, mentre, ancora il 27 ottobre, la polizia arresta, strangola e getta nel fiume un militante algerino. La repressione, per quanto dura, non riesce a fermare la lotta. Il 18 ottobre entrano in sciopero generale i commercianti algerini. Il 20 è la volta delle donne, che manifestano contro la repressione, così come faranno il 9 novembre davanti alle carceri, mentre era in corso uno sciopero della fame dei detenuti. Nel 1989 è fondata l'associazione Onom de la Memoire, composta di figli di immigrati, Beurs, che nell'ottobre 1991 organizza una manifestazione per ricordare il massacro. Nel 2008 si è costituita l'associazione 17 ottobre 1961 Contre l'oubli, che chiede il riconoscimento degli avvenimenti del 17 ottobre come crimine contro l'umanità, il libero accesso agli archivi per quanto concerne la storia della guerra d'Algeria, l'inserimento dei fatti del 17 ottobre nei manuali scolastici di storia, diffondere la conoscenza di questi crimini e di quelli commessi dall'imperialismo. È un modo per rispondere a chi ci parla di civiltà superiore o ci addita esotici nemici. asombrado más y mi ira. You know Donna? Donna, Donna? Okay, sing the chorus to Donna with me, okay? Che vi abbiamo preso letto prima è preso da resistenze.noblog e adesso sempre a proposito di storia, di memoria e sempre a proposito di Francia leggiamo l'appello di Aminata Traoré e di altre femministe maliane contro la strumentalizzazione della violenza contro le donne da parte della comunità internazionale per giustificare l'intervento armato francese in Mali. Dalla drammatica situazione del Mali emerge una terribile realtà che si verifica in altri paesi in conflitto: la strumentalizzazione delle violenze fatte alle donne per giustificare l'ingerenza e le guerre per appropriarsi delle ricchezze dei loro paesi. Le donne africane devono saperlo e farlo sapere. Tanto l'amputazione del Mali dei 2/3 del suo territorio e l'imposizione della Sharia alle popolazioni delle regioni occupate sono umanamente inaccettabili, altrettanto moralmente indifendibile e politicamente intollerabile è la strumentalizzazione di questa situazione, tra cui la sorte riservata alle donne. Noi abbiamo su questo, noi donne del Mali, un ruolo storico da giocare, qui e ora, nella difesa dei nostri diritti umani contro tre forme di fondamentalismo: quello religioso tramite l'Islam radicale, quello economico tramite il mercato globale, quello politico tramite la democrazia formale, corrotta e corruttrice. Invitiamo tutte e tutti coloro che nel nostro paese, in Africa ed altrove, si sentono interpellati dalla nostra liberazione da questi fondamentalismi a unire le loro voci alle nostre per dire no alla guerra per procura che si profila all'orizzonte. Merci, c'est joli. Ognuno dei potenti rappresentanti della comunità internazionale, così come la CEDEAO e l'UA, hanno pronunciato parole a proposito dei nostri maledetti guai di donne in situazioni di conflitto. Il presidente francese François Hollande, che gioca il ruolo di capofila nella difesa dell'opzione militare, ha sottolineato la sofferenza delle donne, prime vittime delle violenze di guerra. E quindi ha dichiarato il 26 settembre 2012 a New York, durante la riunione speciale sul Sahel, immagine all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: «So che può esservi la tentazione di condurre dei negoziati. Negoziare con dei gruppi terroristi? Non può essere questione. Ogni perdita di tempo, ogni processo che andasse per le lunghe, non potrebbe che fare il gioco dei terroristi. Occorre saper terminare una guerra», sembrano dire i presidenti americano e francese. La guerra in Afghanistan si è prolungata oltre la missione iniziale. Essa attizza la ribellione così come permette di combatterla. È tempo di metter fine in buon ordine a questo intervento e io ne prendo qui l'impegno, dichiara François Hollande nel suo discorso di investitura presidente. La segretaria di Stato americana per gli affari esteri, Hillary Clinton, il cui scalo d'Algeri il 29 ottobre aveva in parte per obiettivo quello di convincere il presidente Abdelaziz Bouteflika a unirsi nel campo di guerra, si era rivolta ai capi degli Stati africani riuniti ad Addis Abeba in questi termini. Nella Repubblica Democratica del Congo, il proseguire degli atti di violenza contro le donne e le ragazze e le attività dei gruppi armati nella regione orientale del paese sono per noi un motivo costante di preoccupazione. L'Unione Africana e le Nazioni Unite non devono risparmiare alcuno sforzo al fine di aiutare la RDC a reagire a queste incessanti crisi di sicurezza. L'iniziativa del segretario delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, intitolata «Uniti per mettere fine alla violenza contro le donne», lanciata il 25 gennaio 2008, pone un'attenzione particolare alle donne dell'Africa occidentale. Era prima delle guerre in Costa d'Avorio e in Libia, che hanno largamente compromesso la realizzazione degli obiettivi assegnati a questa iniziativa. Noi comprendiamo la sua riserva per quanto riguarda lo spiegamento militare e speriamo che non sostenga il piano di intervento dei capi degli stati della CEDEAO. La guerra, ricordiamolo, è una violenza estrema contro le popolazioni civili, fra cui le donne. Essa non può che allontanarci dagli obiettivi di questa iniziativa. Perché i potenti del mondo che si preoccupano tanto della sorte delle donne africane non ci dicono la verità sulle poste in gioco minerarie, petrolifere e geostrategiche delle guerre? I'm here to tell you about the destruction of all the evil it will have to end. To stay alive. Questo era l'appello delle femministe maliane e di Aminata Traoré. Adesso andiamo un po' più avanti nel tempo e vi leggiamo da Ferguson a Parigi di Alessandra Daniele, da Carmilla online. Sappiamo quanto le classi dominanti considerino i proletari una minaccia, soprattutto quelli di colore. La release 2015 di questa visione dei proletari è stata appena installata con successo nel cervello di milioni di europei, ancora una volta indotti a guardare con timore e sospetto crescenti qualsiasi faccia scura incontrino alla stazione, al supermercato, in un ufficio pubblico. Da due settimane non passa giorno senza che i media ribadiscono in coro l'allarme cellule dormienti. Subito dopo gli attentati di Parigi, molti hanno twittato lo slogan «Io sono Ahmed», il poliziotto musulmano ucciso mentre presidiava la redazione di Charlie Hebdo. In realtà il poliziotto a cui gli europei sono stati indotti a somigliare è quel Darren Wilson che ha sparato a Michael Brown, considerandolo una minaccia per il suo solo essere un proletario afroamericano. La paura è stata infatti la scusa accampata da Wilson e la cosa più drammatica è che questa scusa abbia un fondo di verità. Quelli come lui vedono davvero i proletari afroamericani come mostri subumani e ne hanno davvero paura. Chi è il mandante dei tre terroristi autori materiali della strage di Parigi? La risposta è semplice e per niente complottista. Chi li ha finanziati? Mandanti dalle dimostrate notevoli possibilità economiche, quindi, a prescindere dal loro essere più o meno musulmani, sicuramente appartenenti alla classe dominante. Il vero scontro di civiltà che stiamo vivendo è in realtà ortogonale a quello che ci viene raccontato dai media, dai predicatori apocalittici di tutte le religioni, dai califfi rampanti, come dal Front International des Leaders, che hanno sfilato a Parigi con Hollande. Non si tratta infatti di Oriente contro Occidente, ma delle classi dominanti di entrambi i poli contro le classi subalterne, per controllare attraverso il potere della paura e dell'ostilità reciproche. Affinché i proletari di tutto il mondo non si uniscano, bisogna che si combattano. Sublimation, she is the essence of thee. She is concentrating on he, the chosen she. Here I go and I don't know why I spend so ceaselessly. Could it be he's taken home? La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte e ciao a tutti. Perché a Parigi? La parentesi di quest'oggi è uno stralcio di un articolo più lungo che sta sul nostro blog coordinamento.noblogs.org ed è un po' la sintesi, il commento di quello che ci siamo detti finora. Centinaia di morti civili sono all'ordine del giorno nei paesi medio orientali, ma la notizia scivola come un dato di cronaca senza provocare particolare commozione. Quando questo avviene in un paese dell'Europa occidentale, suscita una mobilitazione e un interesse assolutamente diverso e più importante rispetto ai tanti analoghi episodi che tutti i giorni insanguinano quegli sfortunati paesi. Dove sta la differenza? Forse la risposta ce la dà Aimé Césaire in quello che abbiamo letto all'inizio di questa trasmissione. Ciò che il borghese del XX secolo, tanto distinto, tanto umanista e tanto cristiano, non riesce a perdonare a Hitler, non è il crimine in sé, l'umiliazione dell'uomo in sé, ma il crimine contro l'uomo bianco, il fatto di avere applicato all'Europa procedimenti colonialisti riservati fino a quel momento agli arabi d'Algeria, ai coolies dell'India e ai neri africani. Tutto è cominciato quando gli Stati Uniti, appoggiandosi per motivi geopolitici al governo pakistano, hanno foraggiato, finanziato ed armato la parte più retriva della società afghana, nella fattispecie i talebani, che hanno rovesciato in un crescendo di violenze inenarrabili un governo democratico e progressista. Gli USA, forti di quel successo e del concorso di una sinistra riformista e socialdemocratica che ha partecipato in vari modi a quei delittuosi avvenimenti, hanno replicato il gioco in tanti altri paesi, per ricordare gli ultimi l'Iraq, la Libia e attualmente la Siria. I morti civili in quei paesi sono tanti e tali che è praticamente impossibile darne il numero se non con approssimazione, ma si tratta certamente di milioni. Sempre a questo proposito, il colonialismo è stata la disumanizzazione di popolazioni intere ed è stato realizzato attraverso il terrore assoluto fino a rendere vana l'idea stessa di resistenza. Tutto ciò sta avvenendo nei confronti dei popoli medio orientali con la creazione e il sostegno materiale e finanziario dell'ISIS da parte dell'USA, degli USA, che si sono appoggiati in questo caso agli stati più reazionari di quell'area geografica: Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar e Turchia. Inutile girarci attorno, l'ISIS è una creatura degli USA, ma qualcuno dirà: perché proprio Parigi? Perché la Francia ha ripreso in maniera forte il progetto neocolonialista, tant'è vero che truppe francesi sono presenti in vari scenari, soprattutto nelle loro ex colonie, dove interferiscono in maniera prepotente negli affari interni, rovesciando governi, imponendo loro uomini di fiducia e rastrellando le ricchezze di quei paesi con la complicità dei loro quisling. Ma perché la Francia, da quando il presidente François Hollande, sta percorrendo senza scrupoli questa strada? Intanto perché i socialdemocratici, comunque si chiamino, e in Francia si chiamano Partito Socialista, avendo sposato la causa neoliberista, hanno portato in dote l'impianto teorico del ritorno al colonialismo, che una volta verteva sulla diffusione della civiltà cristiana, del commercio e del progresso, e oggi si giustifica nei diritti umani, nei mercati e nella democrazia. A questo si deve aggiungere che il personale politico francese non è di nuovo conio, ma è l'onda lunga per discendenza e matrimoni, tra virgolette, del personale politico che a suo tempo gestì le colonie. Ed ancora, una delle caratteristiche figlie del neoliberismo è che lo stesso seleziona un personale, in questo caso politico, particolarmente mediocre, ed Hollande ne è l'esempio. La politica estera francese ha ripristinato il concetto di protettorato, una parola che non si usava più pronunciare dagli anni 50, tornata alla ribalta col revisionismo storico che ha rivalutato il colonialismo. La rilettura del colonialismo e il suo rilancio sono risultato di un'operazione teorica parte del progetto neoliberista, che ci conferma che quest'ultimo è una visione complessiva del mondo ed è pertanto un'ideologia. L'ISIS è come gli Arkis, un corpo di algerini collaborazionisti guidato da ufficiali francesi a cui veniva demandato il lavoro più sporco nella guerra d'Algeria, che si sono coperti di crimini orrendi nei confronti dei loro connazionali. Allora ce la vogliamo dire tutta fuori dai denti? Nelle banlieue parigine si è festeggiato per quello che è accaduto e, siccome siamo in vena di sincerità, diciamo che parte della colpa è anche nostra e parliamo della sinistra di classe. Non abbiamo saputo dare sponde e progetto alle loro attese, abbiamo lasciato vuoto uno spazio e perciò abbiamo consegnato tanti giovani all'integralismo islamico. La religione ha saputo essere quel collante che la sinistra di classe non è riuscita a dare. Dovremmo riflettere su questo. Ciao. que não um amigo. Em cada rosto igualdade, grande uma vila morena, terra da fraternidade. Assombrado uma azinheira que já não sabia a idade. Ciao di nuovo, siamo di nuovo in diretta e l'ultima parte, l'ultimo pezzetto della nostra trasmissione vorremmo dedicarlo al 25 novembre, cioè l'iniziativa che faremo il 25 novembre contro la violenza maschile sulle donne. Per questa iniziativa è per noi molto importante ed è una riflessione sui ruoli, sulle donne, i ruoli delle donne, la lotta armata e quindi che ruota intorno alla questione di genere, ma all'interno della sinistra di classe, e la presenza di Barbara Balzerani e Silvia Baraldini arricchiscono questo confronto che vogliamo intavolare durante questa giornata. È molto significativo non solo il fatto che venga organizzato un incontro di questo tipo, perché la riflessione si arricchisce anche ovviamente di personalità che hanno vissuto in prima persona la questione della lotta armata, pagando anche un prezzo molto alto, ma è anche significativo perché è appunto aperto e dà l'occasione di riflettere seriamente sulla questione del ruolo delle donne, anche in una faccenda che notoriamente e per tradizione viene vista declinata sempre molto al maschile. Noi presentiamo gli atti degli incontri separati che abbiamo fatto proprio con il titolo di cui diceva Maria Silvia prima: i ruoli, le donne, la lotta armata, questioni di genere nella sinistra di classe, e su cui abbiamo discusso sui ruoli sessuati all'interno di situazioni che abbiamo chiamato di emergenzialità. Discutendo tra di noi e con le compagne che hanno attraversato quelle situazioni e quel periodo, eravamo arrivate alle conclusioni che riportiamo alla fine degli atti, che era necessario spezzare la normalità dell'esistente, cioè che l'esistente è un insieme di gabbie in cui di sbarre visibili e invisibili in cui ci infilano e in cui ci costringono a vivere, magari neanche noi stesse ce ne rendiamo conto, e quindi spezzando la normalità si aprono scenari comunque di un immaginario diverso e di altre possibilità, no? Eravamo appunto arrivati a questa conclusione dicendo: sì, allora la normalità è una gabbia, va spezzata in qualche modo, e ogni volta che si spezza, ogni volta che si sospende anche soltanto, si aprono scenari diversi, quindi noi dobbiamo cercare di creare crepe, fessure, squarci in questa normalità che ci circonda. Però mettendo a posto gli atti, sbobinando tutto il discorso, il dibattito che c'è stato, scegliendo i materiali da mettere insieme, no? Abbiamo continuato a riflettere fra di noi e quindi sono venute fuori altre cose che appunto vorremmo portare anche queste al dibattito del 25. Cioè queste altre cose sono in effetti che anche le lotte sono dei rituali in cui ci costringono sempre a lottare come se fossero delle cose che ci appartengono, invece magari sono sempre dentro percorsi che non portano a nulla. e spesso anche i controrituali che noi facciamo, per esempio lo stesso 25 novembre sta diventando un controrituale, cioè dovremmo anche riflettere su questo, no? E poi abbiamo avuto anche un'impressione, cioè che le lotte che portiamo avanti facciano un attimo parte di una società che non c'è più, cioè la società in cui era aperta una contrattazione, seppure miserevole, sia pure limitata, seppure strumentale, tra le parti, cioè tra i subalterni e qualcuno, cioè chi deteneva il potere. Questa contrattazione apparteneva a quello che noi possiamo definire una società keynesiana. Adesso questa società non c'è più, cioè lo spazio di contrattazione è stato chiuso in maniera unilaterale, drastica e assoluta. Noi non abbiamo più davanti una controparte con cui rapportarci e magari con cui entrare in conflitto e chiedere delle cose. Noi abbiamo soltanto un nemico, perché dall'altra parte è stata chiusa qualsiasi tipo di possibilità di contrattazione. Di questo noi dovremmo prendere atto nel ridefinire i tipi di lotta, i modi di lotta, gli spazi che ci vogliamo dare, perché in effetti il potere spazi non ce ne dà più, ha messo in atto una repressione a tutto campo, uno Stato che si può definire di polizia. Però questo che cosa comporta? Che è rotto il patto sociale. Cioè, se il patto sociale è rotto, quel patto sociale traballante della cosiddetta democrazia parlamentare è rotto, allora noi non dobbiamo a questo Stato assolutamente più niente. Ma non noi di questo siamo state consapevoli sempre, insomma, non è che abbiamo mai creduto nella cosiddetta democrazia parlamentare. Però questo è un discorso che bisognerebbe portare fuori assolutamente. Perché? Perché c'è un'egemonia culturale fortissima che viene dal politicamente corretto, di fatto, che ha impostato il PD a conferma che la socialdemocrazia riformista è portatrice dei valori neoliberisti, e che è improntato alla legalità, la sicurezza, la convivenza civile, la meritocrazia, lo sforzo comune per il bene della nazione. Cioè è tutto un paradigma che impedisce alla gente, noi parliamo delle donne, ma alla gente comune, di entrare in conflitto con questo ordine sociale. Okay, we will do. Oh shoot. Maybe we'll do them both, I don't know. Hey, we're in the middle of a revolution, because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your constitution. Vado. Allora, vi aspettiamo il 25 novembre alle ore 18 allo spazio del Tesserando occupato, Viale Regina Elena 336. Mi raccomando, ci sarà il dibattito, poi a seguire cena e musica con le Fimmene, che sono molto brave e fanno una musica molto carina. Non sono bravi, sono bravissime. Infatti, le abbiamo richiamate, perché già le avevamo chiamate, siccome ci hanno piacevolmente sorpreso. Insomma, vale la pena anche per loro. Quindi accorrete numerosi. Allora, in ogni caso, comunque, vi ricordiamo anche che vi stiamo trasmettendo da Radio Onda Rossa, come saprete tutti, e che Radio Onda Rossa ha bisogno del vostro aiuto. Siccome è una radio che è senza padrini e senza padroni, e i finanziamenti vengono soltanto dai compagni, dalle compagne, da tutte quelle e da tutti quelli che la vogliono sostenere, mi raccomando, e ci raccomandiamo a tutti di di provare tutti i modi per finanziare questa radio. Comunque, se andate su www.ondarossa.info trovate tutti i modi per poter finanziare la radio. Inoltre, adesso è uscita la nuova Scarceranda e venerdì 20 ci sarà al Porto Fluviale la presentazione della nuova Scarceranda, e quindi un'iniziativa per la radio. Venerdì 20 alle 18 c'è anche un presidio convocato dagli studenti medi, che anche questo è particolarmente importante, ed è convocata Santa Maria in Trastevere contro le guerre imperialiste e contro la strumentalizzazione che ne viene fatta, ed è intitolato La vostra guerra, i nostri morti. E poi questa sera c'è una cena a sostegno delle spese legali delle compagne e dei compagni che hanno animato le lotte e le proteste nella città di Roma e che sono stati oggetto di repressione, ed è alle 18 all'ex SNIA Viscosa, via Prenestina 174. Quindi vi aspettiamo il 25 novembre, altre serrande occupato. E vi ricordiamo anche un'altra cosa, che dato che il 25 novembre è un mercoledì, la nostra trasmissione non andrà in onda come di consueto, perché noi il 25 saremo al Tesserrande a presentare gli atti, a fare questo dibattito e questa iniziativa. Però in onda andrà sempre la registrazione proprio della puntata sull'incontro e sui contenuti dell'incontro che abbiamo fatto, più chiaramente degli annessi e connessi, tipo parentesi e la rubrica di Dennis, che perché è l'ultimo mercoledì del mese. Quindi, in ogni caso, chi si vuole sintonizzare, saremo com'è? Di qua e di là, riusciremo a essere da tutte e due le parti. Allora, per i nostri per risentire le trasmissioni, coordinamenta.noblogs.org, e anche per avere i materiali, per vedere le iniziative eccetera, oppure per scriverci coordinamenta@autistiche.org. Ciao.